Buongiorno a tutti, grazie prima di tutto a chi ci ospita, sono sempre occasioni preziose. Fra i ringraziamenti metterei anche quelli del musicista che arrivano dalla Moldavia, non apposta ovviamente, però loro sono molto bravi, escono dal conservatorio della loro città e quindi sono musicisti molto preparati. E poi alla fine ci regaleranno qualche altra canzone. Per rompere il ghiaccio direi che il fatto che io ci abbia messo 20 minuti per fare un quarto d'ora in macchina, perché ho dato il cattivo esempio questa mattina, attraversando la zona industriale che sembrava Milano nel centro all'ora di punta, se solo il 10% degli acquirenti di questo libro si convertiranno dall'automobile alla bicicletta, avremo fatto qualcosa di positivo anche per l'ambiente oltre che per la letteratura. E andando con ordine, allora abbiamo fatto i doverosi ringraziamenti a chi ci ospita e facciamo anche le presentazioni. Lui è Fabio Marcotto, scrittore bolzanino, anzi faccio ricorso alle note di copertina. È nato e cresciuto a Bolzano, ha studiato e lavorato in Germania e in Russia, ha pubblicato le raccolte e anzi aggiungiamo, qui non c'è, che adesso è in procinto per emigrare di nuovo perché un nuovo incarico, possiamo dirlo ufficiale, sì. Addirittura in Ucraina, un'esperienza adesso, quindi ci porterà magari qualche storia da lì, e anche se io dovrò andare da solo col tandem adesso, visto che ero compagno di bicicletta oltre che di passioni letterarie e musicali. Ha pubblicato le raccolte di racconti Barduce e Masterà che abbiamo presentato qui un paio di anni fa, e il romanzo breve Vino Dentro, del quale sono state fatte anche varie ristampe, dal quale è stato tratto un monologo rappresentato in Italia, Austria e Russia, è stato prodotto anche dal Teatro Stabile. Non diciamo che si farà un film perché è ancora in lavorazione il progetto. Ecco, e adesso questo libro, Maledetta bicicletta, è un libro di racconti, e non è un romanzo come Vino Dentro, che era un romanzo breve, è un libro di racconti come Masterà e come Barduce e altri racconti, che è stato il primo libro pubblicato da Marcotto. E in estrema sintesi direi che è una dichiarazione d'amore, perché maledetta bicicletta, maledetta ovviamente non ha un'accezione negativa, ma sta per passionaccia maledetta per questo strumento, ormai più che centenario. È una dichiarazione d'amore all'unico mezzo di locomozione, dice Fabio Marcotto, che pur avendo un grande passato, perché è una grande storia, è un grande presente, ha pure un grande futuro, perché gli altri mezzi di locomozione saranno cancellati da, speriamo, da nuove fonti di energia, quando le lobby del petrolio avranno le unghie meno affilate, e quindi è un mezzo assolutamente che riempie la nostra vita, non solo di quelli che vanno in bicicletta, ma anche di quelli votati all'automobile, che le biciclette se le trovano ad attraversare le città molto avanti come Bolzano, dove che ha una rete di piste ciclabili o di ciclopiste, come dice Fabio, è molto sviluppata, ma che non è nulla rispetto ad altre città del nord Europa, e anche questo c'è nel libro. Un libro dove c'è varia umanità, cioè non è un libro per ciclisti, è un libro per tutti, nel senso che veramente c'è la varia umanità qui dentro. Ci sono i grandi campioni, ma anche i millantatori, c'è la mendola, ma anche molte altre cose, c'è il feticista, ci sono i maci in bici, cioè persone normali che con una tutina addosso e un occhiale da sole che nasconde diventano molto più aggressivi, è come una maschera speciale. E, insomma, è, diciamo, la storia e la cronaca del ciclismo visto con l'occhio dello scrittore e non del ciclista, visto che lui era. La prima domanda, allora, per dopo chiaramente anche i potenziali lettori possono rivolgerne a Fabio, la prima domanda è questo titolo. Maledetta bici, quanto c'è di positivo e quanto c'è di negativo dentro questo titolo? Beh, era un po' anche, intanto volevo ringraziare Valeria Trevisan, la direttrice, tutto lo staff, è la seconda volta che ci troviamo qui. C'era un libro di Curzio Malaparte, si chiamava Maledetti Toscani, e in realtà era una dichiarazione d'amore ai toscani, perché insomma li descriveva coriacei, scostanti, ma però così veri, sinceri, veraci, eccetera. Qui era anche un po' una citazione, se vogliamo, maledetta nel senso che diventa una passione tale che poi totalitaria, che ha sì certamente l'aspetto positivo, ma forse anche quello esclusivo, che quindi nega un po'. Altrimenti la bicicletta vista, insomma, come dicevi tu prima, in senso globale, non solo come mezzo di competizione, ma anche di locomozione, di passione, di giocattolino che uno si mette a posto. A proposito di giocattolo, scusami, è uno dei pochi bambini, Fabio Marcotto, che da piccolo, anziché tirar calci con gli altri nel cortile, andava in giro in bicicletta. No, perché pochi. No. Secondo me le passioni del bambino, sono sempre state due, la palla e la bicicletta. Cioè in cortile c'era la bicicletta. Sì, però tu a 10 anni andavi superando la palla. No, quindi sono stato andato molto più tardi. Però sì, facevamo anche questi giri con gli amici di cortile. E c'era la palla e c'era anche la bicicletta, però il regalo di Natale era, il più bello era la bicicletta a una certa età, 10, 12, 14, quindi c'erano le misure, non so, la 22, la 24, la tua è già una 26, la 26 sono i pollici, no? E dopo la 28 è la bici d'adulta, invece quella da donna oggi è 26, no? Di solito normalmente il diametro. E quindi io dico che adesso oggi veramente di palle e palloni sono piene le televisioni, allora insomma anche dare un po' di spazio alla bicicletta. E secondo me ancora oggi si contende il desiderio del bambino, la bicicletta col pallone. Come tuo figlio, molti si dedicano al pallone piuttosto che alla bicicletta, però è un bel giocattolo, ecco. Certo. Qui dentro mi ha detto che c'è lo sport, però soprattutto tanta umanità, filosofia, cronaca, eccetera. C'è molta Bolzano. In che modo? Sicuramente io dico che la capitale della bicicletta in Italia. Adesso mi capita di leggere alcune statistiche incredibili, che sarebbe Mantova o che sarebbe Reggio Emilia. Io ci sono stato. Se voi ci siete stati, non è nemmeno lontanamente paragonabile. Prima alla quantità di biciclette che ci sono a Bolzano e poi alle ciclopiste e a tutte le attrezzature. Di questo va dato merito, io credo, anche non solo alla municipalità di Bolzano, ma anche alla provincia in generale, con i treni, con tutto quanto. Se si guarda in giro, ci sono dei parcheggi per biciclette assolutamente pieni, davanti alla stazione, all'università, qui adesso davanti al supermercato, al Lido, sì, è una cosa incredibile. E dopo c'è il contabiciclette sulle passeggiate, ne ha segnate parecchie. Se vai a Mantova, che sarebbe una città ciclabilissima perché quasi non c'è traffico all'interno, piste ciclabili ne vedi pochissime. Lì usano dei criteri un po' assurdi, tipo di considerare il numero di chilometri quadrati a seconda degli abitanti, insomma dei criteri non secondo me realistici e veritieri. Quindi per questo Bolzano. E poi proprio perché è una città ponte tra nord e sud. A nord sono ancora molto più ciclistici, insomma, per esempio Stoccolma, che potrebbe essere una città fredda e poco attrattiva per la bicicletta, è molto ciclistica. E ecco perché Bolzano. Se si va a Trento è la metà di Bolzano per quel che riguarda le biciclette e le strutture, per esempio. Quindi è un fatto di cultura, io penso, anche più che di clima. E poi stanno aumentando continuamente. Un'altra cosa è il frisbee, queste biciclette elettriche, che sono una cosa geniale, secondo me una rivoluzione incredibile, che permettono a tutti di andare in bicicletta sulle ciclopiste, quindi non in strada, perché non sono considerate alla stregua di motorini, quindi non vanno a motore, e chi le usa può andare da qui a piano. Cioè, se tu hai 80 anni le puoi trasformare anche in triciclo, se vogliamo, con quindi nessun problema di stabilità. E mi sembra, però qui non ho la sicurezza dell'informazione documentaria, mi sembra siano state più o meno inventate qui o comunque diffuse qui da Bolzano. Adesso le vedi un po' dappertutto, ma bisognerebbe fare una piccola ricerca, ma quantomeno in Italia mi sembra che partano da Bolzano. E quindi c'è ancora questo ulteriore aspetto che dà la corona di città capitale della bicicletta, in Italia almeno, insomma. Certo. Parliamo di grandi campioni del ciclismo con ritratti molto simpatici, non è un libro di tecnica, anche se c'è un po' di tecnologia dentro, e poi di millantatori. Per i campioni, il preferito e perché? Beh, io ero affezionato a Moser, che era la cui gloria coincideva magari con una mia età, di quando era 17, 18, 20 anni, insomma, non così. Non era ancora nato quando c'era Coppi. No. Sì, Coppi ha smesso di correre nel 60, mi sembra, o 59, e io non ero ancora nato. Gimondi, sì, però sì, Gimondi era già un po' prima. Gimondi, invece Saronni ovviamente era un nemico, perché nemico di avversario acerrimo di Moser. Ma Moser mi piaceva, era un lottatore, poi andava su queste pietre della Roubaix, vinceva da tutte le parti, non in salita, però era un combattente, poi era di Trento, insomma. Qualcosa, un rapporto. Sì, dopo ci sono stati tanti altri trentini e nessun altoatesino. Fondres, Piccoli, adesso c'è Oss, Simoni e vari Magnago. No, Quinziato di Bolzano, che a me piace molto, però sempre insomma come risultati, come un bel po' sotto questi nomi che ho detto, no? Questi altri, la gente che ha vinto giri, ha vinto maglie verdi, ha vinto classiche, non so, questo è un altro tema, perché a Bolzano non funzionano i ciclisti professionisti. Pur essendo ce n'è di più di ciclisti della domenica. Esatto, questo è un gran mistero. Invece in Trentino sono molto meno ciclisti nella vita di tutti i giorni, però sono dei grandi atleti professionisti. Perché tanti fanno ciclismo per prepararsi alla sci, cioè tanti gruppi ciclistici in realtà sono... Sì, sono due sport complementari. Sì, quindi... sì, vanno in bici, ma per mantenere la forma per lo sci. Può essere una spiegazione. E poi credo che... Io ho letto solo quelle sull'Alto Adige di... cronache dell'Alto Adige meravigliose, no? Proprio... Sì, perché abbiamo... Quello è Bolzano! Dimenticato di dire che una parte di questi racconti sono già stati pubblicati sull'Alto Adige e poi ritoccati. Però io credo che forse è trascurato l'aspetto mountain bike, che forse domani dall'Alto Adige usciranno queste persone... capaci sulle endurance, queste robe, poi sempre leggendo solo quella parte pubblicata sull'Alto Adige, dopo non so il resto, sul punto curiosissimo, però credo che sia un aspetto da revisionare. Sì, è vero, da approfondire. Io dicevo, a guardare bene le cose, vediamo però che nella mountain bike l'Alto Adige tedesco pedala fortissimo. Sì. Sono campioni d'Italia Eva Lechner, ecco, e Mike Felderer, è stato addirittura campione del mondo Hubert Pallhuber. Sì. Che sono tedeschi. Non li sentiamo perché i giornali... È vero. Ma probabilmente, poi il Trentino era povero rispetto all'Alto Adige... Sì, certo, era anche un buon... Come i boxer, no? Sì, perché poi... C'è più tradizione per quello. Sì. Oltre a Mosè c'era stato suo fratello Aldo, che erano dei manovali del pedale, perché erano certamente non punte di diamante. Un aspetto di vita. Certo, quindi c'era anche quell'aspetto lì. Sì. Però secondo me è interessante questo aspetto etnico-culturale, perché sarebbero, sono due regioni in tutto e per tutto simili, anche nel clima e nella conformazione del territorio, quindi si vede che proprio, come dice il professor De Concini, è anche una scelta di vita, no, dettata da, tutte le amicizie dalle bande giovanili poi alla fine, no? Ecco, per esempio, sarebbe interessante vedere perché la pallamano è diffusa qui e non nel Trentino. Perché l'hockey funziona qua su ghiaccio e nel Trentino mi sembra non ci sia neanche una squadra, sono altre, le altre sono Venete, l'Asiago, ecco, sì, che così. Al Fassa c'è, c'è. Però ce n'è una a, a fronte di, ecco, di tante altre. Stiamo diventando troppo tecnici, però. Sì, sì, stiamo. Allora riportiamo l'argomento letteratura. Qui dentro c'è addirittura della filosofia e della filosofia politica. Perché affrontiamo addirittura il tema spinoso se la bicicletta è di destra o di sinistra. Come Giorgio Gaber, insomma. Beh, sì, sì, non c'era in televisione che adesso tutti cantavano libertà e partecipazione. Ma appunto adesso una volta diciamo c'era il benestante aveva certi motorini o certe moto, il Caballero mi ricordo quasi alla mia età. Prima ancora, non lo so, e dopo adesso ce ne so. Ma oggi la Lambretta, sì, ma oggi la bicicletta ce l'hanno tutti, cioè è un oggetto, posso permettere, che fa figo anche, no? Se tu hai una di queste con ago di carbonio, eccetera, cioè non esiste, non sei un pedalatore straccione proletario o che devi guadagnarti la vita come appunto qualche professionista trentino o veneto. Quindi vedi dei personaggi che io adesso ricordo benissimo non avrebbero mai spremuto da se stessi una stilla di sudore, che adesso sfoggiano delle attrezzature incredibili, bici bellissime. Quindi ha unito tutti, in questo senso, no? Veramente almeno democratica, democraticamente, diciamo, creato un'unità nazionale. Comunque il tema è sviluppato all'interno di un capitolo specifico. Interessante. Un altro capitolo molto interessante, che crea anche un neologismo, è quello della ciclonomastica. Noi ci siamo occupati anche come giornale chiaramente della toponomastica, ma c'è una toponomastica che è dedicata alla bicicletta, o perlomeno alla bicicletta e ai camminatori, nel senso che dentro i sentieri, eccetera, proprio dove c'è il punto caldo della polemica, cioè i cartelli dentro ambienti dove possono andare appunto solo pedoni e ciclisti, e per il ciclista diventa ciclonomastica. È un capitolo molto gustoso, direi. Devo chiamarti in causa perché con Fabio andiamo a pedalare ogni tanto nel bosco con un mountain bike. Ma saranno stati 2 anni fa o più, quando ancora la polemica non era divampata in queste forme attorno ai cartelli monolingui, e si vedevano in grande quantità queste nuove cartelli di legno veramente ben fatti, ma solamente in tedesco, e si vedevano non proprio nei centri abitati, ma magari adesso anche ho visto, però un po' a segnare i sentieri oppure anche appunto delle piste per mountain bike nel bosco e così. E il ciclista che pedala nel bosco ne vede molto di più che non il pedone, è un vantaggio enorme, perché per esempio in un'ora uno percorre 30 km a piedi non potrai mai fare, e allora è venuta l'idea di fare un paio di sì, più che racconti, questi sono si sono racconti ma anche storie, ritratti, ecco, questa forse direi una fotografia di com'è la situazione attorno questa polemica, e così ho inventato anche delle traduzioni possibili e un visionarie. Po' visionarie e meno etnicamente accese, dove insomma col Terence diventa Terence Hill a beneficio anche di pedalatori o viandanti di madrelingua inglese, no? Quindi non solo legati, insomma, volevo anche un po' scherzare, sdrammatizzare. E a me sembra, qui dentro c'è molta realtà, nel senso che tutte le storie che vengono raccontate hanno una base di realtà, però l'originalità della scrittura di Fabio Marcotto, qui e non solo qui, Vino Dentro, ad esempio, era di pura fantasia che rasentava l'onirico, grottesco. Qui invece è tutta realtà, però l'originalità consiste nel trattarla con la fantasia. Sembra facile, ma non è così, perché sì, la fantasia può stravolgere la realtà. Qui c'è la capacità di trattare la realtà con la fantasia e con un linguaggio fantasioso. E lui crea anche parecchi neologismi interessanti. Devo anche chiedere dove ha trovato Slipzega, che abbiamo pure però messo dentro in un contesto. Non l'avevo ancora visto scritto, e poi, diciamo, era un linguaggio del cortile, però nobilitato da... non pubblicherò, c'è... Allora, se vuoi dire qualcosa, come no? Certo. Innanzitutto è un lessema di origine, cioè internazionale, perché se tu sulla mia sella della bici da corsa c'è scritto no slip, no scivolo, è inglese, slip, internazionale, Sega. E quindi ci sarà il suffisso Zega, che mi sembra sia di origine trentina, ma per me, se uno anche di un anglofono può capirlo, quindi mi sembrava una parola geniale nella sua suggestione fonica, ecco. E poi per esempio c'era un'altra parola, paceca, che se anche uno non sa cos'è, sì, l'idea, non so. Ma sembrava riproducesse per me perfettamente l'idea di una neve, perché in Italia si dice solo neve, ma già in Trentino, Veneto, si dice anche pacecca, appunto, per definire una neve marcia o piena d'acqua o scivolosa, mentre gli eschimesi hanno 30 definizioni per dire neve, perché ovviamente hanno correlativo oggettivo, quindi hanno 30 tipi di neve secondo che sia ghiacciata e così via, insomma. Un'altra cosa che riguarda lo stile, che era già clamorosamente utilizzato dentro Vino Dentro, è quella degli elenchi. Cioè, ben prima che li facessero Fazio e Saviano, Marcotto è ricorso all'elenco di aggettivi, di situazioni, di personaggi. Anche qui, ad esempio, è uno dei primi capitoli, quello della fauna umana che trovi sulla pista ciclabile da Bolzano a Piano. E questa caratteristica proprio dell'uso dell'elenco di personaggi, aggettivi, eccetera, che sembra una cosa facile, però è una cosa molto efficace che Fazio e Saviano hanno valorizzato nella trasmissione. È pieno di epigoni. Dire cosa su questo? No. Te ne eri accorto? No. Procedi per elenchi. No, adesso mi... Grazie, mi fa piacere, ma... Beh, secondo me fare un elenco di personaggi o persone che sono, per esempio, sulla pista ciclabile, sì, è come fare una fotografia. E siccome tu non hai l'immagine, mettendo uno vicino all'altro queste immagini, dai nel modo più breve possibile l'immagine in movimento di una situazione. Com'è la pista ciclabile da Ponte Roma, io ho in mente quella che va per dirci a Ponte Resia, lì si vede di tutto, e a volte da incazzarsi come ciclista, perché però si vede di tutto su quella ciclopista, appunto, come dico qua, carrettini, microsci, carrozzine, bambini. Se uno la guarda con un occhio un po' aperto e divertito, è simpatica anche quella situazione, vuol dire anche che è un luogo dove la gente si sente bene o comunque non in pericolo. Certamente non si fa così, direbbero, a Berlino, perché se tu ti fai trovare sulla pista ciclabile a Berlino è davvero un problema, però anche questo, insomma, la dice lunga sulla nostra cultura un po' particolare. Io credo che li abbiamo convinti che è un libro interessante, sì. Però entrare, prego. Per essere più convincenti, questo qua devi fare leggere, sì. No? Gli può dare anche il giusto tono all'aggettivo. uno breve ma incisivo. Si intitola Maci in bici. Ho dimenticato gli occhiali. Ecco qua, vediamo. Abbiamo in comune anche quello. No. Ce la fai? Ma non va mica tanto bene. No. No, va meglio. C'è un volontario? Va meglio senza. No, ma tenendolo sì, per se ne allora, si chiama questo Maci in bici. Non si sa perché, ma la bicicletta tra tutti gli oggetti di locomozione è quello privilegiato dal feticista. L'amore che il feticista prova per il proprio mezzo talvolta si estende tuttavia anche al vestiario. Assistiamo allora ad autentiche sfilate su due ruote. Body rutilanti, magliette a fil di pelle, caschi stellari, calzetti droppellenti, scarpette rinforzate a chiusura progressiva. Un giorno ho fatto il conto addosso a uno di questi esteti dell'uniforme ciclistica. 880 euro, bici esclusa ovviamente. Ma non è un'invenzione. Ma il problema non è tanto il costo della stessa, quanto invece il monaco che spesso sortisce da siffatto abito. Alcuni di tali esteti, una volta inforcato il ciclo, casco in testa e occhiali al naso, si trasformano in veri e propri maci in bici. Grazie a un certo qual anonimato garantito da tal bardatura e a una silenziosa rapidità di movimento, essi dragano la strada pervasi da un senso di impune onnipotenza, a caccia di prede, che, neanche a dirlo, sono pacifiche cicliste desiderose solo di farsi una pedalata in tutta tranquillità. Il peggio del peggio è quando tali satrapi al pedale sono pensionati che, svestiti e pedoni, ispirerebbero financo tenerezza. Camuffati, invece, si trasformano in piccoli Mr. Hyde. Fischiano, apprezzano, ammiccano sbandando, scattano gesticolando in modo sceno. Spesso si muovono in gruppo, formando un vero e proprio branco, e pestano sui pedali come fossero all'ultima trombata. Il sessismo o macismo al manubrio è l'altra e più moderna faccia del sessismo o macismo al volante. Cambiano i tempi e i mezzi di locomozione, ma l'animale che è in noi è sempre pronto a svegliarsi. Oggi come ieri l'abitacolo della macchina rappresenta una corazza blindata per chi vuole esibirsi senza pagare il prezzo di farlo con un nome. Oggi più di ieri la bicicletta offre lo stesso privilegio, tra virgolette, senza nemmeno più il diaframma di lamiera, sostituito dalla possibilità di un'accelerazione o di uno scatto che porta in salvo l'autore. Ma mentre le vendite di auto stanno crollando in tutto il mondo e il mito delle quattro ruote è al tramonto, la bicicletta torna di moda e vive un nuovo boom. Tuttavia, qualche settimana fa, sulla ciclabile che porta da Piano, mi è capitato di assistere a questa scena. Una ragazza sale agile su una Scott in carbonio, seguita a 50 o forse 80 metri di distanza da un ragazzo che avrà più o meno la stessa sua età. La prima scivola sull'asfalto senza alcuna fatica e sembra stia facendo un allenamento leggero. Il secondo sbuffa e arranca come se dietro la curva ci fosse lo Stelvio. Complice la mia quasi quotidiana frequentazione con la ciclabile, questa scena la vedo ripetersi almeno 4 o 5 volte, in giorni e a ore diverse. Quindi non è un caso. Lui la segue e probabilmente cerca di non farsi notare. Si apposterà in attesa all'uscita di un cortile? Ne studierà gli orari di pedalata? La sorpasserà per non dare nell'occhio? E, in salita, riuscirà a tenere le sue ruote? Si allenerà per riuscirci? Ecco, se le cose stanno così, questo più che macismo mi sembra un bel esempio di romanticismo al pedale. Vedete che c'è realtà, quindi, trattata sì, con la fantasia. Un altro personaggio che lui ha scovato, lo conosceva poi di essere emigrato in America, forse i Bolzanini non lo conoscono, pur avendo un cognome noto, e fa parte della categoria dei talebani della bicicletta, cioè dei fanatici proprio. E possiamo citare solo un episodio, cioè quello che lui ha, la gara più clamorosa che lui ha di cui è stato protagonista in America. Ecco, forse era quarantenne. Si chiama Andrea Tosolini, un ragazzo che adesso vive, forse qualcuno lo conosce, prima era comunque uno sportivo molto bravo nel basket e adesso vive in Florida, e lui si è appassionato alla bicicletta. E appunto prima parlavamo agonisti, non agonisti, invece ci sono molti di questi appassionati della bicicletta in Alto Adige che amano queste imprese estreme, e lui ha fatto una gara di 1200 miglia senza mai fermarsi, senza mai dormire, da Montreal a Boston a tornare a Montreal in poco meno di 50 ore, e l'ha vinta, è stato il primo italiano a vincere una gara di questo tipo, è di Bolzano. Allora questa storiella mi era, che in realtà è un'impresa, ma da noi nessuno, appunto gli americani vanno pazzi per queste cose qua, per esempio fanno delle gare nei motodromi o autodromi e girano in circolo per, non so, 10 ore e conta e vince chi fa più chilometri, e sono pieni, li riempiono, è un baraccone, tanta gente che va a vederle queste gare così. Quindi lui in America era a un certo punto, in quel momento, molto famoso, ripreso e seguito da tutti. Qui da noi insomma si è avuto una notizia, una certa, però noi siamo molto meno appassionati a queste cose, ecco. Ecco, le storie sono tante, perché sono 36 in questo libro, però sicuramente ci sarebbe stata dell'altra carne al fuoco, perché a un certo punto bisogna quagliare e anche vedere, avere la gioia di vedere un prodotto finito. E quindi la domanda è: ci sarà un seguito, vista la frequentazione della bicicletta ancora? Beh, io intanto ringrazio Fabio che mi ha dato un po' anche l'impulso, perché io non avevo tanta, in un primo momento ero un po' sopraffatto dalla pigrizia, non volevo così lanciarmi in queste scritture, che poi invece sono state divertenti e hanno appassionato anche a me, prima per l'Alto Adige, poi anche altre, alcune le ho tolte, altre se ne sono aggiunte. A me piacerebbe fare un giorno il viaggio in bicicletta da Resia a Venezia, a Chioggia, cioè lungo l'Adige, chiamandolo forse l'altro Adige, oppure alla foce, vedendo cosa c'è, chi va in bicicletta, cosa succede, chi si incontra, e sarebbe come percorrere a ritroso forse il percorso che hanno fatto molti allora migranti dal Veneto e dal Trentino soprattutto, che forse per quantità la popolazione più rappresentativa adesso in Alto Adige tra gli italiani, che sono sì immigrati dal sud ma molto più dal Veneto, dal Trentino, chissà, vediamo se si riuscirà. E c'è qualche domanda? Qualche curiosità? Io volevo fare una domanda. Prego. No, ma è fuori da questo, ho sentito, perché non ero al corrente, che lei ha tenuto una cattedra di italiano in Russia. E due domande. La Russia e la bicicletta. Ecco. E poi così, questo però è fuori luogo. Gradirei che magari nella sua attività di scrittore ci dicesse qualcosa lei sulla Russia, che lei ha visto come italiano, perché io sto leggendo parecchi libri che trattano appunto di questi ricchi russi, di questa mafia russa, eccetera. La cosa non è che mi convinca molto, no? Quindi se lei riuscisse a mettere giù qualche sua, chiamiamola, impressione su questo. Quindi bicicletta Russia, che nella mia idea non ho mai sentito, forse non ci sono neanche... Ha freddo? No, occasioni per... La seconda domanda, forse ci vorrebbe quasi una giornata intera. A parte che c'è già un libro. La Russia vista dall'italiano era già al centro del libro che abbiamo presentato qui 2 anni fa. C'erano dei racconti. Racconti che... non... Ma comunque, magari, sulla bicicletta non vanno in bicicletta. Non ci sono. Ma non è una questione di clima, perché invece a Stoccolma ci vanno tantissimo, e anche Helsinki. È una questione di cultura. Tanto la bicicletta è, come forse era da noi negli anni 70, un attrezzo da poveracci che non rispecchia l'avvenuta trasformazione in quello cui molti adesso ambiscono, essere alla guida di un SUV. Questo per rispondere anche all'altra domanda, che è una cosa molto triste, è una degenerazione di una cultura invece grande, profonda, alternativa, che però ancora c'è. Noi non possiamo vedere solo questi miliardari che vengono all'assalto di negozi, non ci sono solo questi, no? Invece la bicicletta è usata nei parchi più come un oggetto ludico, comunque per passare il tempo si porta lì in metropolitana e ci si va nel parco, che non è accessibile alle auto. In strada si vedono alcune biciclette, ma sono suicidi alla guida di questi mezzi, perché è pericolosissimo. Non ci sono assolutamente piste ciclabili. Qualcuno lo vedi, ma una volta c'erano due russi che da Mosca erano venuti a San Pietroburgo e gli ho chiesto come avevano fatto, perché essere ancora vivi si deve percorrere la strada proprio a fianco, ma senza nessuna protezione. E poi il clima non invita, insomma, certamente. Però in Germania, per esempio, anche lì non è bello, però ci vanno tutto l'anno, anche con le motociclette, attrezzati come si deve, per cui ecco. Non so se... C'era la signora. Ciao signora. Ah sì, ma io volevo dire una cosa di tenore quotidiano. Io vado in bicicletta, mi piace moltissimo, la uso per così, per non portare pesi, per fare movimento senza consumare le articolazioni del piede, eccetera. E il mio condominio è molto accessoriato di biciclette. Ho notato però anche in questo un uso diverso fra uomini e donne. Cioè, per la donna è un aiuto, un prolungamento della colf, qualora la colf c'è, sì, per non portare pesi, per andare facilmente a spiegare la pratica, eccetera, vestita in maniera del tutto normale. L'uomo invece no. L'uomo adotta un abbigliamento che connota il ciclista in maniera più chiara, e un giorno ho capito che un mio condomino era andato in pensione perché l'ho visto nella rampa del garage tutto vestito scientificamente da ciclista. Fino al giorno prima non l'avevo visto, mai visto andare in bicicletta, ma è tutto abbigliato e partire. Ho capito che per gli uomini che vanno in pensione è una maniera proprio per passare il tempo, per cimentarsi. È un mondo nuovo proprio. Prego? È un mondo nuovo che si apre. È un mondo nuovo, allora fanno molti chilometri, guardano quanti... La donna no, secondo me è molto più estranea questo utilizzo, perlomeno le amiche mie, nessuna dice non so, ho fatto tanti chilometri, nessuna la prende scientificamente, invece l'uomo la prende molto più sul serio ed è un test di appunto efficienza fisica. Va, proprio vero, e posso leggere le tre righe che, parlando con un amico, diceva lui: con il mio amico Mirko siamo seduti al bar in Piazza Domenicani. Ci sciamano davanti drappelli di biciclette silenziose, sono quasi tutte mamme, ragazze, anziane. È la donna la regina del pedale, dice improvvisamente Mirko. Certo, dico io, tanto più che non hanno nemmeno l'assurdo mito dell'auto e via così avanti. No? E invece l'uomo è in bicicletta, se deve diventare competitivo, che anch'io in certo modo. Però, per esempio, anche molti uomini ragazzi la usano per muoversi, credo. Sì, poi c'è quel vantaggio, credo, per la donna, che può portare benissimo delle calzature eleganti, giusto? senza il problema, per esempio, del tacco che si infila tra i sanpietrini o il dolore, quindi è un'invenzione veramente fantastica. Penso. Un'amica alla bicicletta, io mi ricordo che avevo 40 anni quando mio papà, molto tempo fa, e mio papà mi disse: ma comprati una bicicletta. E io dico: ma papà, ho 40 anni, dico, non mi pare, dico, non so. Ma no, ma... e me l'aveva poi regalata lui, una Grazielli. E da allora devo dire, effettivamente, non c'è stato consiglio migliore, perché adesso certe volte anche in inverno, pur di non arrancare con queste borre, dico, E poi lei la laccia lì al manubrio e non porta il peso. Non porta il peso, in un secondo, prima tarde, sono un po' in discesa, quindi sì, sto seduta, comoda. No, è un'invenzione veramente geniale. Sì, e se togliessero le macchine in certe strade, ma sarebbe una cosa che uno veramente, e non fa quasi fatica, appunto, se uno usa anche una, quella pedalata assistita elettrica, portare anche più facilmente e velocemente i bambini senza di percezione, anche la scatola, perché tu sempre la macchina è una scatola, no? Sì. Tu sei dentro, non hai contatto, invece fuori a piedi, in bicicletta, stai piano, vedi, senti. E una giornata come oggi non è fredda per la bici, sì, ti metti una giacca, un coso, ma non... Comunque, prego. Il fatto che sia anche una questione culturale lo dimostra anche, non so quante volte l'ho citato questo esempio, ma sul Tavera, vicino, poco più in sopra al parco degli skate, c'è un piazzale che viene utilizzato per le feste ed è bello asfaltato, e lì tutto l'anno ci sono le donne extracomunitarie, insomma le nuove cittadine, che si insegnano reciprocamente, sì, ad andare in bici, quindi evidentemente c'è tutta una frangia di... Un nuovo capitolo. Sì, no, guarda, te lo volevo segnalare, perché è una cosa che mi ha sempre stuzzicato la fantasia, questo aspetto. Ci sono le pakistane, cioè di certi paesi, che arrivano qui e non hanno mai usato la bicicletta, però per necessità devono muoversi, anche perché magari lavorano molte di loro, ma anche russe, perché visto che tante badanti non hanno mai usato la bici, e il problema è iniziare a stare in equilibrio sulle due ruote a metà, tipo la mia, e le vedi che si fanno le cose e ridono, insomma, guarda, quante volte mi sono fermata a guardarle, perché sono bellissime, una che tiene, l'altra che applaude, l'altra che fa. Questa mi è sfuggita, guarda, veramente vale la pena. Se raccontarlo o cosa, però è carina da mangiare, è un momento magico. Sì, questa è carina da mangiare. Possiamo... Sì, noi avevamo in cantina un vinaio venuto dalla Sicilia, vite difficilissime, Venezuela, tutto, e ha tirato su tutti i parenti, no? Cugini, zii, a lavorare a Milano negli anni 60. Però andava in zona industriale, ho visto insegnare o viceversa imparare a dare in bici a una persona di 40 anni. Sì, ma terribile, è una cosa, uno spettacolo, questa... un'iniziazione. Sì, ma questa è situazione. Io ho visto proprio dei momenti di hilarità, cioè loro ridono, sono lì che se la spassano fra di loro. Noi, sì, è inconcepibile. Adesso però non andiamo a vedere lo zoo, No, ci passo davanti, no, però passando un'occhiata a vedere se c'è, perché vedi proprio lo scarto di una società. Sì, perché poi noi diamo per scontato sapere andare in bicicletta, nuotare, andare in bici. Invece in alcune zone del mondo non è una cosa così scontata e automatica, per cui, e appunto, poi se uno inizia ad andare a 35-40 anni, e il mezzo inizia a essere ingovernabile a volte, cioè difficile. Come perché imparare la lingua a 40 anni? È così. È proprio una... no, non ti senti proprio io lo vedo, o mi hanno detto proprio alcune persone, sono sempre un po' rigide. Come imparare a sciare? Sì. Quella volta che l'ha imparato, insomma, poi ritenere anche dopo 10 anni. C'è qualche altra curiosità? Segnalazioni, domande? Allora darei un paio di informazioni di servizio. E cioè, mi sono accorto che abbiamo dimenticato di citare l'editore, che è grave, che è Curco Genovese, che ha una capillare distribuzione triveneta, ma anche, anche fuori, dato il tema, speriamo così lungimirante da capire che... Perché i temi che abbiamo citato sono locali, però assolutamente si elevano da questa località, da questo localismo, e quindi è leggibile da Catania, dove la bicicletta magari la usa solo d'estate e senza piste ciclabili, a Bolzano, dove cerchiamo di sopravvivere. Altre informazioni di servizio, se non ci sono altre domande chiudiamo ancora con ringraziamenti e saluti. E con la possibilità di acquistare il libro qui o in qualsiasi libreria, ma addirittura di acquistare anche la musica dei nostri amici moldavi, che adesso ci faranno un altro omaggio musicale, ci sono portati un loro CD a prezzo politico, e anche con un brindisi che adesso... io dico una cosa. Festeggiamo la bicicletta, il Natale, tutto. Io, siccome c'è un pubblico così simpatico e che è convenuto con questo tempo, in questo... Pochi ma buoni. Pochi buoni, e poi sotto Natale, io lo regalerei il libro, così se vogliono concentrarsi eventualmente sull'acquisto della musica, e brindiamo con un prosecco, così, a chi vuole. Posso dire una cosa? Io ho reimparato ad andare in bici a 50 anni, nel senso che sono appassionatissimo di automobili di tutti i tipi, di qualsiasi cosa. Però un giorno ero proprio distrutto, anche mia moglie era distrutta, e allora non sapevamo dove andare in ferie, e abbiamo detto... a Grado, perché è il posto dove sicuramente non c'è una salita. E lì abbiamo ripreso a andare in bici. Anche lungo la spiaggia, secondo, si arriva. Sì, anche andando dentro verso le Alpi, è lo 0,0%. No? E effettivamente per noi è stata una salvezza. Fisica, no? Sì, e questo ci ha rimesso nella bici, insomma, no? Contemporaneamente, dopo separatamente, mio fratello aveva iniziato con la questione delle frisbee, no? Ho letto dei belli articoli. Sì, e per questo ho un po' approfondito il tema, quindi abbiamo avuto un osservatorio abbastanza grande di reazioni. Adesso il bello è che i ragazzi delle medie cominciano ad andare con il frisbee, non per fare pubblicità, qualsiasi tipo di va bene, perché vuol dire che è saltato il principio a Bolzano del motorino. Certo, a 14 anni come rito di passaggio, e comincia una vera sensibilità economica, poi per il resto andare in giro per il mondo è l'ultima cosa. Le biciclette di qualsiasi autore sono trovato uno, c'è ormai una produzione grandissima. Sì, c'è Edi Ciclo, c'è un editore, c'è un editore apposta. Ma quasi, fa. Gli autori allegrissimi.